sovrano, sopra noi, candide, le nuvole, viaggiano dentro me, dentro te. Le senti ancora di più, va, viaggiano, rapidi, atomi, va, di secoli, viaggiano, crescono, dentro noi, limpide, le nostre idee. Dimmi che tu le senti ancora di più, ah, aria fresca di mattina che dai monti scende giù, che mi prende, mi trascina, resti tu, oh. Tu mi ossigeni la mente e mi spingi a stare su. Viaggiano come noi, liberi, ah, gli zingari. Viaggiano dentro me, dentro te. Viaggiano, ah, le nostre idee. Dimmi che tu le senti adesso di più. E dimmi che tu le senti adesso di più, ah, aria fresca di mattina che dai monti scende giù, che mi prende, mi trascina.